Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Uno studio dell'Università di Oxford suggerisce l'uso di un farmaco steroideo, il desametasone, per la cura dei pazienti affetti da forme gravi di Covid-19. A Obiettivo Salute il commento del professor Piero Sestili, ordinario di farmacologia all'Università di Urbino. È una notizia che conferma quello che da un po' di tempo si immaginava e si sapeva, vale a dire che la malattia Covid-19 nelle fasi in cui migra verso forme più severe, riconosce una base patogenetica infiammatoria molto importante, cosa che in qualche maniera era stata già messa in evidenza da alcuni studi, inclusi le applicazioni del professor Ascerto di Napoli. Poteva trovare appunto la Covid-19 profondo giovamento dalla applicazione di una terapia antinfiammatoria. Lo studio di Oxford non fa altro che confermare queste intuizioni e questi dati. Il trattamento con desametasone o probabilmente anche altri cortisonici idonei è in grado di bloccare la progressione della malattia verso sintomi più importanti e aggiungerei che probabilmente previene anche alcune di quelle degenerazioni che lasceranno nei pazienti Covid che hanno sperimentato la malattia in forma grave delle sequele importanti come aspetti fibrotici di cui ancora sappiamo poco. Lei, insieme a un gruppo di ricercatori, proprio all'inizio della pandemia stava valutando l'opportunità di usare il desametasone anche per le forme lievi. Ci sono degli sviluppi in questa direzione? Ah beh, senz'altro. Noi, guardi, il 24 di aprile assieme a Roberta Ricciardi, che è l'anima clinica dell'idea, abbiamo inviato al ministro Speranza un appello sottoscritto da 50 tra colleghi universitari per lo più del mio Ateneo, ma anche di Parma, di Bologna, di Pisa, di Roma, nel quale proponevamo e anzi facciamo proprio un appello al ministro Speranza affinché considerasse l'idea di utilizzare il desametasone o altri cortisonici nella terapia della Covid, ma in fase precoce, quindi non nelle fasi che lo studio di Oxford ha affrontato, vale a dire le fasi direi quasi terminali della malattia, quelle più severe. Noi proponiamo di utilizzare il desametasone assieme ad altri farmaci nelle fasi precoci della malattia, perché è la nostra convinzione che un approccio di questo genere possa decisamente migliorare il decorso clinico, ridurre la mortalità e la virulenza della malattia. E questo sarà particolarmente importante perché se fosse vero che a settembre potremmo avere una seconda ondata epidemica, e a quel punto noi dovremo avere dei protocolli terapeutici più consolidati, più certi, affinché le cure dei prossimi, speriamo pochissimi, infetti con Covid, soprattutto quelli ad alto rischio, possano essere gestiti in maniera efficace in ambito domiciliare e non ospedaliero. Grazie professore per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, mentre vi do appuntamento sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, oggi parliamo di vista. Buona giornata da Nicoletta.